Aspetta! Aspetti! Aspetta! Ma la proposta è in doppio originale! Una Rosaura, vostra padroncina, e l'altra! Il vostro nome? Colombina! È vostro! Colombina de cucina! Gambe, via!